9 in punto, la versione di Oscar. This is the end. Ma no, ragazzi, no, ma come this is the end? This is the end, avevamo detto che in questi giorni non la metteva. Oh! Terza strofa, ragazzi, dell'inno tedesco, terza strofa. Io ve l'ho spiegato ieri che l'avevamo messa apposta e ho fatto la spiega successiva che le prime due non si sentono più in Germania per il nazismo, ma era apposta per dire che la Germania che a tanti non piace, anche Sebastiano Barisoni, la Germania cattivona, quella che si avrebbe fatto lei i nostri debiti, non c'entra niente, la Germania nazista non c'è più. Quindi terza strofa dell'inno tedesco, la teniamo fino al Consiglio europeo e fino alla roba che a voi piace, a molti di voi in ascolto piace molto per il Consiglio europeo, cioè la partita, questi mutande che rotolano dietro una palla che rotola, e per cui l'Italia mica è un caso che poi gli piacciono le palle che rotolano, perché lo sport nazionale di quelli che si fanno rotolare le palle non poteva che essere il pallone per certi versi. Allora teniamo l'inno tedesco perché faccio il tifo per la gioia. No, io dico che è una sana regola che nello sport, che nella vita, che nel mercato e che nel confronto tra ordinamenti pubblici vinca il migliore. Noi negli ordinamenti pubblici facciamo schifo, questo dicono i numeri, è chiaro questo? Schifo! Dopodiché molti iniziano a protestare dicendo che sono fuori linea di Radio 24, che altre trasmissioni di Radio 24 sono più in linea, Sebastiano mi batte i punti e io sono contento di questo, perché la mia visione minoritaria parla a nome di un'Italia che non ce la fa più di avere questi conti pubblici schifosi che pregiudicano la nostra dignità, il nostro onore, il nostro portafoglio e il nostro risparmio. E finché avrò un grammo di fiato, i numeri prevarranno, i numeri che dicono che la Germania statisticamente è più brava anche di noi a calcio, magari vince la partita e deve vincere il migliore, ma i numeri nell'economia dicono che chi ha fatto pulizia a casa sua è incomparabilmente meglio di chi continua ad avere politici che mentono, che diluiscono, che prendono tempo e che alla fine vi dicono che la colpa è dei cattivoni che stanno a casa d'altri. Ma che la colpa è di chi a casa propria non fa il proprio dovere. A me l'ha insegnato quella santa donna di mia madre che mi prendeva a schiaffi e che anche adesso è molto arrabbiata con me perché dice che non ho ancora imparato a 50 anni. Figuriamoci, ecco, io l'ho imparato di là. Per questo, in queste mattine, iniziamo con un piccolo ricordo dell'inno epurato, perché i tedeschi che hanno sbagliato hanno pagato un prezzo, lo hanno pagato sia dopo la prima, sia dopo la terrificante seconda guerra mondiale, e però si sono ritirati sulle manichette, capite? Ecco, i loro debitucci, la loro spesuccia pubblica, le loro tassucce le hanno abbassate e hanno fatto una bella rivoluzione di produttività. Si tratta di copiare, di diventare tedeschi, di cantare il loro inno? No. Assolutamente. Si tratta di fare però pulizia e chiarezza a casa nostra e per questo bell'innetto nel ricordo che almeno nello sport, ma soprattutto anche nell'economia pubblica e privata, i migliori devono prevalere, questa è una sana regola, perché chi crede invece di aver diritto allo sconto perché è debole o perché ha fatto il furbo, non ha diritto allo sconto, ha diritto a un aggravio ed è esattamente quello che sta succedendo sui mercati, anche ieri lo avete visto, naturalmente oggi i giornali titolano tutti che è la Merkel a fondare le borse, certamente è la Merkel a fondare le borse, però fidatevi, se al Consiglio europeo non ci sarà un grande passo avanti, come purtroppo è giusto temere, credo che il debituccio pubblicuccio italiano, poiché abbiamo una spesuccia pubblicuccia molto più elevata degli altri e delle tassucce molto più elevate degli altri, finiranno per alimentare nei mesi successivi, altro che la calda estate dell'euro, la rovente esplosione della tenuta italiana, e avremo un agosto di quelli che preferirei evitarci ed evitarmi, perché da quello che sento l'aria è quella di costruire uno strumento obbligato, visto che nessuno ci crede al fatto che l'Italia taglierà davvero punti di spesa pubblica, abbasserà le tasse per riprendere a crescere e abbatterà il debito con cessioni patrimoniali, come da sempre questo cretino che non vi piace vi dice, poiché non ci crede nessuno purtroppo al fatto che lo faremo, potrebbero obbligarci a uno schema, si chiama fondo di redenzione, redemption fund del debito pubblico, nel quale obbligarci per un certo numero di anni, diciamo 10, diciamo 15, a un certo numero di punti di PIL ogni anno di tasse, diciamo fino al 3% l'anno, da versare in cambio di un fondo che ci consentirebbe di allungare le scadenze del debito pubblico e di abbatterne il valore. È ovvio che una volta che veniamo obbligati a un meccanismo di questo tipo, nessuno più direbbe che si può tagliare la spesa e si possono tagliare le tasse. e tutti se la prenderebbero col meccanismo internazionale. Ovviamente io mi batto per un'altra linea, ma di questo vedremo. Continueremo a riferirvi del travagliato avvicinarsi all'Eurovertice. Intanto oggi parliamo, ecco qua, è finito, dalla terza strofa, avete capito? Nessuno pensi che sono un nazista di ritorno, perché ci sono state lettere che hanno segnato al direttore: Giannino nazista, via, via, via, Giannino che grida, lo abbiamo sentito gridare in tedesco, c'ha gli stivali chiodati. Mi sembra che alcuni di voi siano leggermente sulla via dell'assunzione di qualche sostanza psicotropa in questa estate evidentemente calda, ma di temperatura, per l'effetto che fa ad alcuni ascoltatori. No, non mi drogo, no, non gli stivali chiodati, era un inno che ieri vi ho spiegato apposta perché partivamo con la prima strofa, ma da oggi ci teniamo la terza. Ma appunto, andiamo al tema della giornata, uno dei classici temi vichiani, per così dire, dell'eterno ritorno, del sempre uguale di ciò che si annuncia e non si fa nel versante della spesa pubblica, perché quanto poi a tagliare i redditi e i patrimoni delle imprese e delle famiglie, ah beh, quello è in corso come una cesoia da anni. Ma lo Stato a casa sua non ci riesce, capite? Questo Stato così magrolino, macilento, con così poche risorse, che intermedia solo direttamente come spesa pubblica il 60% del PIL legale, e che sommando invece il PIL calcolato dall'Istat tra entrate e uscite arriva al 99%, cioè 10 punti di quello che avvenga, più di quello che avvenga in Germania, e la bellezza di 27 punti più di quanto non avvenga negli Stati Uniti, dove la somma di entrate e spese pubbliche è il 72% del PIL, da noi è il 99%. Quindi è ben più del 100% del PIL legale, cioè di chi le tasse le paga. Ecco, lo Stato che è così macilento, capite, non riesce a tagliare. È uno dei classici argomenti, è quello su cui dobbiamo tentare di registrare e capire che cosa sta avvenendo all'interno del governo e nei confronti con le autonomie, cioè i tagli delle province. I tagli delle province. Che cosa sta avvenendo? Brevissima, sintetica resumé per presentarvi poi gli ospiti e dare la parola a loro. Ricordate che nel Salva Italia di fine dell'anno scorso il governo Monti ha tentato di dare un'accelerata alla materia, prendendo una determinazione che in Parlamento non è molto piaciuta, anche se poi Salva Italia fu votato, nel quale si decideva che nelle regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale ovviamente hanno una competenza diversa, nelle regioni a statuto ordinario entro la fine di questo anno 2012 le province sarebbero comunque diventati enti di secondo livello, atte quindi a coordinare le funzioni delegate dei comuni, non più con funzioni proprie, con consigli e organi emanazioni di secondo livello, appunto, e non più eletti direttamente. Cosa che è contestata dall'ANCI, dall'Unione Province Italiane, poiché siamo a metà anno e a questo punto le scadenze per le norme attuative della norma contenuta nel Salva Italia si avvicina, ecco che in vista del Consiglio dei Ministri di questa settimana i giornali hanno preso a scrivere di ciò che nel governo intanto è andato avanti come confronto interno. Da una parte la linea del governo di quella parte del governo che intende rimanere ferma alla norma del Salva Italia e quindi vorrebbe tenere ferma la linea di province come enti di secondo livello, e avrebbe identificato tre criteri in base ai quali verrebbero meno 42 province delle 86 che ammontano nelle regioni a statuto ordinario. Dall'altra parte, sempre all'interno del governo, la linea di chi, con e alla testa il ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione Filippo Patroni Griffi, opta invece per un riordino generale e non per tre criteri secchi che porterebbero al taglio immediato di 42 province delle 86, ma fa un rinvio, Patroni Griffi, alle proposte avanzate dall'UPI e dall'ANCI, che proporrebbero di incardinare la razionalizzazione delle province sull'attuazione della norma non attuata dal 2010 per l'introduzione delle 10 grandi aree metropolitane in Italia, e proponendo la razionalizzazione delle province come tavolo complementare per l'accorpamento dei servizi e delle unioni. dei comuni. Allora, queste due linee si confrontano e vedremo se prevale la linea secca di semplificazione voluta da una parte del governo, ripeto, avrebbero meno 42 province su 86, o quella invece che ha più ascolto in Parlamento, che si rifà alle proposte avanzate da UPI e ANCI. Nel quadro c'è ovviamente il peggioramento delle condizioni del rapporto politico tra maggioranza e governo, e vedremo dopo il vertice europeo, a seconda dei risultati del vertice europeo, come e se l'ascia di guerra roteata da Silvio Berlusconi preluderà o meno a un ritiro della fiducia da parte del PDL o di parti del PDL nei confronti del governo, nel qual caso ovviamente sarebbe tutto molto molto più complicato. Ecco, intanto allora vediamo i nostri ospiti di oggi. Abbiamo con noi il presidente dell'ANCI Toscana e coordinatore delle ANCI regionali, nonché sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Giuseppe Castiglioni, che è il presidente Unione Province Italiane ed è il presidente della provincia di Catania. Buongiorno, buongiorno. Castiglione. Buongiorno. E Silvio Boccalatte, ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni, che mi tengo come, cioè, campione del mio partito Le Mosche Bianche, autore del libro Abolire le province. Buongiorno e grazie, Boccalatte. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, posso chiedere intanto prima a Cosimi e poi a Castiglione che cosa vi consta direttamente, di che cosa sta, per così dire, premasticando il governo su questa decisione, che sarebbe condivisa però non da tutto il Consiglio dei Ministri, ma solo da una parte, di tagliare le 42 province rispetto alla linea Patroni Griffi. Cominciamo da Cosimi. Ne sapete qualche cosa? Il governo vi ha avvisato? Ma da un punto di vista così del pourparler e degli elementi di conoscenza delle relazioni, sappiamo molte cose, anche molto contraddittorie. Da un punto di vista formale, in questo momento, devo dire, forse per mia debolezza di conoscenza, non abbiamo un elemento definitivo. I criteri che sono stati indicati sono usciti sulla stampa, ne abbiamo avuto contezza anche di questo fatto che lei citava, cioè che c'è una contraddizione importante nel governo, e francamente questo è tutto quello che sappiamo. I tre criteri sarebbero una popolazione residente superiore ai 350.000 abitanti, un'estensione territoriale di almeno 3.000 km quadrati, un numero di almeno 50 amministrazioni comunali sul territorio. Castiglione, conferma quello che ha detto Cosimi? Ma ufficialmente il governo ancora una proposta non l'ha fatta. Noi ci siamo incontrate più volte, il governo ha chiesto chiarimenti, delucidazione sulla nostra proposta. Devo dire ad onore del vero che l'unica vera proposta di riforma, di riassetto delle nostre istituzioni, di risparmio complessivo, è quella dell'Unione delle Province d'Italia. Il governo ci ha convocato, abbiamo fatto più riunioni con il governo e oggi sono stati diradati, diciamo, i fumi del populismo, della demagogia, e siamo entrati nel merito della questione. Quindi è l'Unione delle Province d'Italia che, così come non ha voluto la creazione di nuove province, le nuove province sono nate ad opera del Parlamento. Qualche anno fa, quando si istituiva una nuova provincia, la popolazione era molto contenta di avere ancora ulteriori istituzioni sul territorio. Oggi, in una posizione, in un momento politico differente, chiaramente, la nostra proposta, quella di razionalizzazione delle nostre istituzioni, dall'altro lato di risparmio della spesa, perché noi siamo stati i primi a dire che c'è una macchina pubblica che costa 870 miliardi il costo dell'amministrazione pubblica, dove le province incidono in misura molto parziale. Quindi siamo stati i primi a dire: noi vogliamo riformare le nostre istituzioni, siamo per che si razionalizzino anche le province, però vogliamo parlare di gestione associata delle funzioni dei comuni. Il mio amico Cosimi sa che 6.000 comuni sotto i 5.000 abitanti nel nostro paese, quindi c'è un tema che riguarda la gestione associata delle funzioni dei comuni, c'è un tema che riguarda l'accorpamento delle province, c'è un tema che riguarda le regioni. Abbiamo fatto un calcolo: 3.127 enti regionali che operano nel nostro paese, 3.127 enti che operano nel nostro paese. E poi c'è un problema che riguarda l'amministrazione periferica dello Stato, gli enti, le società partecipate, gli enti strumentali, c'è un problema di assetto complessivo. siccome noi non vorremmo che si determinasse la situazione, lunedì scorso sono stato a Cagliari dove con un referendum sono state cancellate le province e oggi si pongono oltre i limiti costituzionali, quindi chiaramente i limiti costituzionali sono assolutamente evidenti, si pongono una serie di problemi, di costi maggiori, di trasferimento del personale, di mutui contratti, di gestione di nuovi enti, costituzione di nuovi enti per la gestione dei servizi, e quindi è chiaro che un tavolo di governo con il governo serio che mette insieme i comuni, le province e le regioni, un'azione di grande responsabilità, la consapevolezza del momento che viviamo e soprattutto del nostro confronto con l'Europa che deve essere un confronto autorevole e credibile, in questo quadro noi siamo in prima linea, noi le province dal primo momento non si sono arroccate, non hanno fatto difesa d'ufficio, non hanno fatto difesa di casta, hanno detto un ente di governo tra il comune, tra il piccolo comune molto spesso e la regione, un ente di pianificazione territoriale, di mobilità, la protezione civile, servizi a rete, acqua, rifiuti, è necessario un ente di governo e che deve avere una dimensione ottimale. Qua mi soccorre, devo dire, molto spesso anche il governo. L'ultimo decreto che hanno fatto, il Cresci Italia, quando si parla di gestione dei servizi pubblici locali, dice la gestione, la dimensione ottimale è quella della dimensione provinciale. Allora è chiaro che il governo deve fare una scelta, quindi noi siamo in linea con questa razionalizzazione che nel paese è assolutamente necessaria, l'abbiamo detto in tutte le salse, però non vorremmo che i 30 milioni di euro paventati di risparmio del governo che deriverebbero dalla riduzione dei consigli, eliminazione dei consigli provinciali, degli assessori e dei presidenti di province, i 30 milioni individuati dal governo diventino, facciano percepire al Paese che stiamo facendo una vera opera di razionalizzazione. Così non è. Noi non vogliamo essere il capro espiatorio, noi vogliamo diventare invece i motori da un lato della razionalizzazione e dall'altro lato dello sviluppo. Allora, aspetta, fermo, grazie. Ecco, no, perché sennò l'ho fatta parlare 5 minuti di seguito. Bocca al latte, solo 30 milioni porteremo a casa dal progetto governativo e dall'altra parte le province abbiamo appena sentito dicendo fidatevi di noi, si razionalizza di più se vi affidate a noi. Lei che dice, Bocca al latte? Dico che effettivamente il Salva Italia, su questo incredibilmente sono d'accordo con il presidente Castiglione. Diciamo, per quanto previsto nel Salva Italia, i risparmi sono valutabili veramente in poche decine di milioni di euro, poi bisogna capire esattamente quanti, ma si tratta comunque di un risparmio molto limitato. Non sono invece d'accordo su tutto il resto, cioè le province devono certamente essere un tassello nella riorganizzazione del sistema istituzionale, però io continuo a ripetere, qui noi abbiamo sopra la crapa di ciascun cittadino, i municipi, il comune, le province, le regioni, lo Stato, l'Unione Europea, nonché un fiume di enti pubblici economici o meno. Sinceramente non se ne può più e non c'è certamente bisogno di avere, voglio dire, enti ulteriori tra i comuni e le regioni che siano enti come le province, perché nessuno nega che ci siano esigenze di area vasta, cioè esigenze obiettivamente sovracomunali ma infraregionali. Ma questo non significa che serva un ente territoriale, un ente locale ad hoc per attendere a queste necessità. Voglio dire, la signora Thatcher negli anni Ottanta, conscia di ciò, aveva iniziato un procedimento che poi in buona parte ha portato a termine di riforma con, voglio dire, accordi e nella fattispecie anche poi istituzioni tecniche per la soluzione di problemi specifici, perché poi nella fattispecie le province che cosa fanno? Fanno 5, 6, 7 compiti che sono ricavati con un meccanismo di cesello tra le competenze dei comuni e le competenze delle regioni che sono state attribuite alle province perché accidenti. Ci siamo ritrovati questo residuato storico dell'unificazione italiana, che sono le province, abbiamo un ente locale, gli dobbiamo trovare qualcosa da fare, il che è patologico, perché voglio dire, la fisiologia sarebbe abbiamo una necessità, vediamo se serve un ente pubblico e che tipo di ente pubblico può servire e poi vediamo di istituirlo. E noi qui in Italia abbiamo fatto il contrario, ci siamo trovati un ente pubblico e gli abbiamo dovuto trovare necessariamente qualche cosa da fare. In relazione alle riforme che adesso si vociferano in sede di Consiglio dei Ministri, e purtroppo bisogna dire che nessuna delle due soluzioni che sono state prospettate sono effettivamente, a nostro avviso, congrue, perché il taglio brutale delle province di 42, 47, 50, quante possano essere le province da tagliare, porterà un risparmio minimo, alcune centinaia di milioni di euro, ma anche l'altro sistema, il riassetto delle competenze, a parte il fatto che sono 20 anni che si parla di riassetto delle competenze, sono 20 anni che si parla di città metropolitane, dal 1990 che si parla di città metropolitane, sono state addirittura costituzionalizzate nel 2001 e le città metropolitane non ci sono. Ma il riassetto degli enti locali e del potere dello Stato sul territorio deve passare innanzitutto attraverso l'abrogazione, la soppressione delle province, con la quale avremmo, non dall'oggi al domani, intendiamoci, ma nell'arco di qualche anno, come economia di scala, avremo 2 miliardi di euro annui di risparmio fisso. Naturalmente io ho l'obbligo di dirle, pur aderendo alla sua tesi e come candidato a Presidente del Consiglio in un paese irreale, farei mia questa proposta, quindi saremmo in pochi a avere i voti, che la sua stima dei 2 miliardi è una stima, direbbero tutte le rappresentanti delle province e dei comuni, che non tiene conto del fatto che i soli costi ai personali, anche se ci fosse l'ipotesi poi di farne a meno, sono poco più di 450 milioni e naturalmente non ne faremmo a meno, eccetera eccetera eccetera, e quindi in realtà dicono che i suoi 2 miliardi non stanno né in cielo né in terra, lei lo sa questo. Perché il budget complessivo delle province si aggira intorno ai 16 miliardi e mezzo, ormai più tendenti ai 17 che ai 16. Allora, scontato tutto questo ragionamento, noi avremo circa 2 miliardi di risparmio. Cioè, voglio dire, attraverso questo qui, non licenziando alcuna persona, semplicemente riorganizzando le funzioni e attraverso un minimo di economia di scala, perché si tratterebbe di, voglio dire, riallocare il personale sostanzialmente nei comuni. Perché? Perché poi bisogna dare anche un minimo di quadro su come si potrebbe andare, diciamo, oltre le province. Bisognerebbe sfruttare le regioni e riportarle al loro ruolo normativo originario, perché le regioni non sono enti amministrativi, non dovrebbero avere il compito di amministrare nell'ottica del costituente, ma avrebbero il compito di dettare norme legislative. Dall'altra parte i comuni sarebbero il vertice, il fulcro del sistema amministrativo. Bene, allora noi dovremmo attribuire alle regioni il compito di dettare il quadro normativo corretto attraverso il quale i comuni possano organizzarsi e, se serve, associarsi per lo svolgimento di alcune funzioni concrete. Perché poi, ora, se noi chiediamo ai presidenti delle province il ciclo dei rifiuti di qua, di su, di giù, ma poi si arriva sempre alla gestione delle strade e alla gestione di parte dell'edilizia scolastica. Perché sull'edilizia scolastica poi abbiamo veramente un caso macroscopico. Abbiamo un'edilizia scolastica che, se è edilizia scolastica della scuola elementare, la scuola primaria, allora è edilizia scolastica comunale, altrimenti per la scuola secondaria è edilizia scolastica provinciale. Voglio dire, questo è un esempio di come abbiamo dovuto operare con il cesello per togliere un po' di competenza ai comuni e attribuirla alle province. Ad esempio, tutta l'edilizia potrebbe tranquillamente essere gestita dai comuni, le strade siamo passati dall'ANAS alle province, avanti e indietro, anche lì potremmo tranquillamente riattribuire le strade in competenza ai comuni. Allora la fermo perché è finito anche il suo tempo. Comunque lei dice 2 miliardi, ora andiamo in pubblicità e poi torniamo con Cosimi per la riflessione finale per nome dell'ANCI, lui è ANCI Toscana, ma insomma il nome dell'ANCI. Ricordo a tutti che Lupi dice che con la sua proposta se ne risparmiano 5 di miliardi, perché mezzo miliardo viene dalle città metropolitane e dalla riduzione delle province, perché anche lì c'è un accorpamento, una razionalizzazione delle province a 60, complessivamente da 107, poi altro mezzo miliardo verrebbe dall'efficienza delle amministrazioni provinciali, cioè dal farla lavorare un po' meglio, 2 miliardi e mezzo dall'abolizione di molti uffici statali periferici, quindi di questi 5 miliardi la metà sono a carico dello Stato centrale, e poi 1 miliardo e mezzo dall'abolizione di enti e agenzie strumentali. Va bene, intanto è chiara la linea di Boccalatti, abolizione degli enti in realtà intermedi, cioè tra regione e comune, comune come servizi di prossimità e regione non esclusivamente per dare direttrici, linee generali, non per amministrare direttamente. Sono due linee molto diverse. Sentiamo Alessandro Cosimi, presidente dell'ANCI Toscana e coordinatore delle ANCI regionali e sindaco di Livorno. Che dice Cosimi? Ma mi perdoni se sarò un po' franco e anche un po' brutale. Mi sembra una discussione molto vecchia, molto datata. Il problema vero, mi perdoni, è che non si può fare una riforma istituzionale partendo dal fatto che bisogna risparmiare dei soldi. Bisognerebbe avere un'idea chiara e avere avuto un andamento lineare. Guardi, io sono notoriamente eletto con uno schieramento di centrosinistra, la colpa non è solo del centrodestra, è stata anche del centrosinistra in questo senso, che non ha voluto affrontare il problema. Però noi abbiamo regioni che fanno la gestione e che sarebbe una questione sbagliata. Le province, come sentivo il mio amico Castiglioni, che fanno anche cose assolutamente utili, ma il punto nodale è capire se questa allocazione di nuove problematiche, non di vecchie soluzioni, è quella che serve a uno sviluppo del paese. Perché si discute sempre come se gli enti locali fossero un punto dove si discute di fogli. Io sono terrorizzato da questa modalità e ho l'impressione che su tante questioni, se lo faccia dire anche da una persona apertamente di sinistra, con radici proiettate, essendo il sindaco di Livorno, in forze politiche che oggi non ci sono più, forse bisognerebbe anche un po' allentare questa morsa. Il ciclo dei rifiuti, alla fine dei conti, ci sarà un problema di avere un soggetto che fa il controllo, non ci sarà il problema di uno che gestisce. Cioè, troviamo una maniera per aprire queste modalità, relazioni con il privato, sistemi che consentano un dinamismo della società. Io non lo so se la discussione di stamani in qualche modo non risente del fatto che poi alla fine bisogna trovare una mediazione. Mi paiono momenti nel quale alla fine la mediazione non basti più, se devo essere sincero. Il governo fa una mediazione, applica dell'articolo 23 un punto e una serie di criteri, andando ad affrontare un tema che è poi alla fine un modo per mettere insieme cose, però non affronta il tema delle prefetture, il tema dei provveditorati, il tema degli ATO, che ha prorogato di un anno. Cioè, tutte questioni che poi alla fine ci cadranno addosso, perché magari la asimmetria dell'organizzazione dello Stato farà peggiorare anche le cose e magari avrà ragione il mio amico Castiglione e rimpiangeremo le province. Ci vuole un punto, che è un punto, secondo me, lo chiami come vuole, costituente, chiamiamolo come si vuole, dove c'è un'idea vera. Io sono d'accordo anche alla riduzione dei comuni, guardi, lo dico in maniera molto onesta, funzioni fondamentali ai sensi della 42 e ridefinizione delle modalità con le quali si fanno le funzioni associate e le gestioni associate. Dopodiché però tutti mettersi in discussione e mettersi davvero. Cioè, io non credo che poi ai cittadini interessi avere un ente, compreso il comune, che non sia capace di risolvere un problema ma che gli faccia solo certificati. Non è l'esistenza che determina l'efficacia e non credo nemmeno che questa specie di riforma o rivoluzione, come la vuole chiamare qualcuno, che farà il governo, servirà a togliere il problema. Ci vuole un fatto culturale, l'ente intermedio, cioè quello che ha il compito del coordinamento di alcune funzioni. Come lo definiamo? Questa questione cambia anche, mi perdonerà se lo introduco così, la relazione con un bicameralismo perfetto che oggi non ha più motivo di essere e che non è in nessuna democrazia compiuta? O c'è questo ragionamento? E non voglio tirare pallone in fallo, va benissimo risparmiare e va benissimo, se c'è un accordo anche con le province, fare i percorsi immediati, ma non sarà questo che risolverà il problema. Allora, una visione più ampia e ragionevole, non interventi volti solo al risparmio, quello che ci dice finendo il primo giro Alessandro Cosimi, presidente dell'ANCI Toscana. Sentiamo un po' di ascoltatori, cominciando con Enzo, che ci chiama dalla provincia di Carbonia Iglesias. Prego, Enzo. Sì, grazie Giannino. Io sono intervenuto perché quando ho sentito Castiglione parlare proprio della Sardegna, in cui c'è stato un referendum. Citato il referendum, sì. Ha citato il referendum, sì, ma dicendo che le province e i presidenti non si erano opposti, addirittura sino al venerdì precedente al referendum, il presidente della provincia di Nuoro, De Riu, ha cercato di impedire che il referendum avvenisse facendo ricorsi nei tribunali per ben 3 volte. Quindi le province si stanno opponendo, soprattutto i presidenti e chi fa l'amministratore, perché è un luogo dove vanno a sistemare amici, parenti e compagnia, mica perché servono, perché giustamente, come diceva qualcuno, la provincia è un doppione delle funzioni comunali, perché le strutture sovracomunali, tipo il rifiuti urbani, l'acqua e compagnia, possono essere benissimo gestite dai sindaci. come l'Unione dei Comuni, non certo creando un'altra sovrastruttura che peggiora sia i costi sia i servizi. Voi dovete pensare che in Sardegna avevamo 8 province, di cui quella dell'Ogliastra, 57.000 abitanti. Ma ha senso avere una provincia di 57.000 abitanti? Io credo che sia una cosa che non serve a nessuno, soprattutto ai cittadini. Serve esclusivamente a prendersi il gettone, i consiglieri provinciali, il presidente, 40.000-50.000 euro all'anno. La provincia di Carboni Eglise ha 4 dirigenti a 120.000 euro all'anno, ma che senso ha per amministrare 100 persone? Io credo che, secondo me, questo tipo di gestione non serve né alla politica né ai cittadini. Grazie Enzo. Nico da Vercelli. Pronto? Nico, prego, dica. Dottor Giannino, buongiorno. Buongiorno. Io l'ascolto abbastanza frequentemente, non sono sempre d'accordo con lei, però tante volte lei dice anche delle cose giuste. È troppo buono, la ringrazio. Può capitare che ogni tanto ne dico una. Prego, dica Nico. Ad esempio sulla Merkel non sono d'accordo, perché comunque i tedeschi hanno dei problemi loro e li vogliono creare a noi. Ma comunque lasciamo perdere quello, Nico. Che non voglio dire di quello, volevo chiedere solo questo. Certo, hanno problemi loro, ma i problemi loro li hanno risolti senza aspettare l'Europa dal 2002 al 2007. Sì, ma li hanno risolti grazie all'Europa anche. Comunque lasciamo perdere un secondo. Ah, santo Dio. Volevo chiederle questo. Meno male che siamo noi i generosi risolutori dei problemi tedeschi, grazie a quello. Ma su, Nico, ma abbia pazienza. Ma si rende conto che abbiamo una pressione fiscale attualmente di 6 punti superiore e il welfare nostro è una roba che imbarca acqua da tutte le parti? Comunque, non la voglio interrompere. Dico che vi hanno convinto che la politica non vi ha depredato e voi gli andate dietro. Nico, anche lei, gli vada dietro. Dica che è la colpa della Merkel. Sono i cattivi tedeschi che hanno le tasse alte, ci hanno messo l'IMU, che hanno alzato le imposte dirette con le addizionali, indirette con l'IVA, con le patrimoniali. Sono i politici tedeschi. È il Bundestag, non sono quelli italiani. Però io adesso sto zitto, perché sennò faccio una cattiva figura. Prego, prego. Ma comunque non è importante. Io volevo solo chiederle questo: per quale motivo nessuno ha mai detto o pensato, forse io non l'ho sentito, perché si devono ancora mantenere le regioni a statuto speciale, che sono, tra le altre cose, specialmente in grande quello che sono le province, cioè una fonte di mangiamenti, adesso non mi viene il termine perché oramai è da qualche Beh, efficace anno però, non... mangiamenti è un po' così, ma è efficace. Oramai è da un po' di tempo che non frequento più la scuola, quindi non ho più l'eloquio che avevo qualche anno fa. Comunque, perché sono già pensionato, ecco, per quale motivo, anche se ho solo 64 anni, però ho fatto 40 anni di lavoro, quindi mi sembrava una cosa. Lei giustamente dice, qui c'è contestuale un enorme problema, quello delle regioni a statuto speciale, che per quanto abbiano ragioni storiche, abbiano una tutela costituzionale più forte, però spandono, beh, in effetti dal Trentino, sia pur con criteri diversi di efficienza, alla Sicilia, difficile darle torto. Grazie Nico. Lorenzo da Palermo, prego Lorenzo. Sì, buongiorno. Guardi, io ho ascoltato questo dibattito che mi è parso surreale. Perché surreale? Io le premetto che ho lavorato negli enti locali per più di 15 anni, io ero alla regione, svolgevo attività ispettivo, quindi ho un po' avuto modo di vedere. Sprechi, ruberie, si annidano da tutte le parti, dal più piccolo comune alla regione siciliana o, se volete, dello Stato. Quindi il problema non è quello. Quanto alle competenze, io credo che sia la vera questione. Noi abbiamo però un momento Lorenzo, non è ci può dire, siccome ci sono gli sprechi e ruberia a ogni livello, il problema non è quello. No, cioè, problema... però le voglio dire, il problema fondamentale secondo me è questo, sta nelle competenze. Noi abbiamo i comuni che fanno solidarietà sociale, le regioni che fanno solidarietà sociale, la provincia che fanno solidarietà sociale. La provincia, almeno nelle nostre zone, è servito come ente di contiguità territoriale. Abbiamo comuni molto piccoli, ad esempio con uffici tecnici insignificanti, che non potrebbero mantenere assolutamente le regioni, le strade, le scuole, eccetera. Quindi ha avuto questa grande importanza. Io mi concentrerei invece più sulla spesa per l'attività degli organi istituzionali. Ad esempio in Sicilia con la legge 30 del 2000 i gettoni sono stati aumentati in maniera dismisura e oggi gli enti locali sono appesantiti da queste spese, perché il consigliere, il presidente, insomma gli organi istituzionali hanno una grande assorbono una grande quantità di denaro. Poi le volevo dire un'ultima cosa. Io ho una proposta, sarà anche folle. Chiudiamo gli uffici della regione siciliana, perché non solo che spendono tanti soldi, ma soprattutto appesantiscono l'attività amministrativa, perché lei capirà bene, con 20.000-30.000 dipendenti, una carta luna, ci inventiamo regolamenti, eccetera, e allora io faccio l'imprenditore, per avere un permesso dovrò passare da 100 uffici, perché ci saranno 100 impiegati che daranno le carte, e lo stipendio glielo diamo sempre, no? Almeno non appesantiamo. Allora, Lorenzo, io sono a Palermo sabato mattina con amici in un teatro e parleremo esattamente di questo argomento. Mentre partono i Doors, intanto le agenzie battono particolare di un rapporto di Van Rompuy che fa parte dei quattro euro vertici che stanno lavorando in vista dell'agenda del Consiglio europeo. Van Rompuy è il presidente del Consiglio europeo insieme al presidente della Commissione Barroso, Juncker, il capo dell'Eurogruppo, e ovviamente a Mario Draghi. Temo che sulle spalle di Mario Draghi, se si delinea un compromesso al ribasso, cadrà di nuovo la responsabilità di comprare tempo per l'Europa, e quindi o una LTRO terza dopo le prime due di gennaio e febbraio e dopo l'ulteriore ammorbidimento della qualità dei collaterali decisi la settimana scorsa. Vi ricordo che l'esponente del Bundesbank ha votato contro a questa decisione nel board, e anche ieri Jens Weidmann di Bundesbank ha sostenuto la linea della Merkel, che ha smentito Schäuble, il ministro delle finanze, che aveva secondo me responsabilmente detto c'è un limite al costituzionale che noi abbiamo esplicitato al recepimento del trattato europeo, ma bisognerà superarlo, altrimenti noi non potremo, richiamando ogni volta questo limite, che dire no a tutte le proposte verso una federalizzazione progressiva. E la Merkel però ha ieri brutalmente smentito il suo ministro delle finanze. Nel frattempo andiamo al Consiglio europeo, dove non si presenta il premier greco perché è malato, dove si è già dimesso il ministro delle finanze greco perché è malato, e dove Cipro, che prende il 1° luglio la presidenza di turno, ha ieri presentato come quinto paese la sua richiesta di aiuti, dopo aver a lungo soppesato se non fosse meglio chiederla alla Russia di Putin. Un bel quadro, non c'è dubbio, quello europeo. Ma facciamo un giro conclusivo intorno a questa questione. Riprendo da Castiglione. Che cosa si aspetta, se posso chiederlo, ufficialmente dal governo? Che vada avanti sulla sua strada senza più sentirvi istituzionalmente, oppure che dopo il Consiglio dei Ministri comunque si faccia vivo con voi? Ma io mi aspetto che concretamente si faccia qualche passo in avanti sulla nostra proposta, sulla via della razionalizzazione, sulla via della spending review, quella vera. Al professore Boccalatte devo dire che la premessa è eccezionale, però dimostra di non aver mai amministrato un ente, quando parla che la provincia organizza solamente le strade oppure le strade, l'edilizia scolastica, mi pare che non conosce la provincia. Basterebbe guardarsi attorno, il terremoto di questi giorni, i momenti di l'assetto idrogeologico, l'energia, la banda larga, tutti i temi che hanno un carattere sovracomunale, che di cui le province si occupano compiutamente. Poi basterebbe pensare al patto di stabilità, il trasferimento del personale ai comuni significa far saltare il patto, il trasferimento dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti significa far saltare il patto, significa non aver mai amministrato. Quando si parla di autonomia tributaria dei comuni, ma sa il professore che in un comune insistono più comuni, che c'è più studenti di altri comuni che frequentano una scuola, e quindi non si potrebbe applicare quello che lui dice, perché io piccolo comune dovrei pagare il servizio scolastico a tutti i comuni, a tutti gli altri comuni del territorio. Quindi mi pare ci sono alcuni temi concreti. Quindi in Europa ci sono gli enti di governo intermedio, non è un'invenzione della storia, perché ci sono in Europa i livelli di governo intermedio. Come noi razionalizziamo questi livelli istituzionali? Abbiamo detto che le regioni ormai vanno al di là della legislazione, quelle regioni a statuto speciale sono il primo che lo dice, e quindi vanno ben al di là delle loro competenze, fanno amministrazione, come fanno, appesantiscono le procedure burocratiche, fanno sì che gli imprenditori non vengano ad investire in Sicilia perché le procedure sono troppo lunghe. Quindi ci sono tutte queste, le regioni sono andate, sono veramente un grande appesantimento. Allora, maggiore efficienza dei comuni, sarebbe paradossale in questo momento, parliamo di città metropolitane, diceva il professore, da 10 anni restano, sono nella Costituzione, non sono mai partite. Allora aboliamo le province e non facciamo partire e lasciamo in Costituzione le città metropolitane o non le facciamo partire. Noi diciamo invece laddove esiste la città metropolitana non può esistere la provincia, quindi razionalizzazione significa gestione associata delle funzioni a livello comunale, città metropolitane alternative che assorbono il comune e la provincia, quindi ente di governo di area vasta che si occupano di pianificazione territoriale, di protezione civile, di energia, di banda larga, di temi dello sviluppo. Stop, la devo fermare perché il tempo è finito, temo di capire che non ne verremo a capo, vedremo cosa farà il governo, intanto mi tengo la mia idea che tagliare si può ma non si fa, questa è l'idea. Grazie a Boccalatte, a Castiglione, a Cosimi, appuntamento intanto a domani.